finisce come sempre accade. E allora oggi, Pietrangelo? Oggi ho incontrato un uomo che ha fatto tardi e, avendo fatto tardi, ha parlato e mi ha spiegato che quando ci si congeda dalla memoria, ciò che resta è solo un veloce volo. L'amore, per esempio, è qualcosa che finisce presto, ma è un gioco quel leggere la mano dove si trova solo la fine. Però qualcosa di indimenticabile, mi ha spiegato l'uomo che arriva in ritardo, resta dentro, e la persona o le persone, sparite come in un prisma fatto di giorni e di serate inutili, vanno a finire come sempre accade tutto ciò che finisce troppo presto per restare. Qualcosa un po' di te mi è rimasto dentro, indimenticabile. Dolcezza, Mario, sì. Le tue bolle oggi ci portano allegria, no? Insomma, così. Un po' sì, un po' no. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, la canzone è bella, ahimè, le notizie no. Per quello che ti dicevo, insomma, avete visto che cosa sta succedendo in Liguria? Due dispersi, Chiavari semisommersa. La cosa è che il destino si mette veramente a ironizzare. Si dice cinico e baro? Beh, lo è in questo caso, perché proprio oggi, in questo momento, dovrebbe cominciare. Sì, c'è un convegno, Giovanni, e il titolo è Stati Generali contro il dissesto idrogeologico. Ora, non male. È amara, no? È una risata amara, perché amarissima. Che cosa si fa in Italia quando c'è un'emergenza? Si fa un convegno. Si fa un convegno. Sarà il millesimo. Sarà il millesimo. Quindi, ma perché fate il convegno? Lasciate qualcosa. Stare. Fate qualcosa che è diverso. No? Vabbè, se no non voglio fare, per carità, niente moralismi, ma. Vai con le bolle. Qui Houston, potete ripetere. Houston, abbiamo un problema. Oh, questa era brevissima, però insomma, diciamo che è passata leggermente alla storia. Giovanni, Google si prende la base della NASA. Hanno più soldi? No, la NASA aveva bisogno di soldi, eccetera. Google invece c'ha un programmino molto interessante per il suo futuro. Si sono presi l'hangar più grande del mondo a Moffett Field. Io ho avuto la fortuna anche di andarci, di vederlo, sì, perché era Singularity University. Era il garage dei dirigibili, fu costruito nel 1933, e al suo interno ci possono stare tranquillamente 6 campi di football americano. E Google farà diventare questo simbolo dell'architettura della Silicon Valley la sua sede di ricerca per l'aerospazio e altre tecnologie emergenti. Insomma, signore e signori, la notizia è che il gigante di internet sta spostando sempre più la sua ricerca verso il cielo. Meditate, cari signori, che parlate ancora di cassa integrazione straordinaria per aziende decotte. Il mondo va da un'altra parte. 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666, quota rosa. Sono passati 1000 giorni da quando i Marò, Massimiliano La Torre e Salvatore Girone sono in India. Questi 1000 giorni sono diventati l'unità temporale con cui i nostri politici prendono tempo, cercando di far credere che hanno un cronoprogramma. E in questi 1000 giorni i due Marò hanno risposto alle telefonate di ben 5 ministri degli esteri che si sono succeduti alla Farnesina. Giulio Terzi, Mario Monti ad interim, Emma Bonino, Federica Mogherini e adesso Paolo Gentiloni, che ha prontamente rassicurato così due militari. Qualcosa è cambiato nel quadro politico indiano e credo che, diciamo così, il canale di comunicazione da questo punto di vista politico si sia rafforzato rispetto a prima. Dopodiché mi auguro che produca risultati, lo vedremo nelle prossime settimane. Qualcosa, non si sa cosa, è cambiato e i risultati si vedranno. più avanti. Noi da oggi ricorderemo al nostro governo che vogliamo vedere tornare i nostri Marò a casa. Salamini! Salamini da procura, i grillini vanno in procura perché dicono nel patto del Nazareno ci sono accordi che preparano ad una dittatura. Le riforme infatti, secondo i grillini, sono state pilotate illegittimamente e giusto uno dei commenti a caldo è stato è la cretinata del mese, ma noi invece prendiamo sul serio perché poi appunto i pubblici ministeri sempre vigili a salvaguardia della democrazia hanno aperto il fascicolo. Allora sono 31 pagine, 31 pagine di denuncia preparate da Andrea Colletti, che è un avvocato di Pescara, e dove è stato messo tutto in tema di retroscena, quindi le trattative politiche, capire cosa c'è, cosa si arriva, le valutazioni fatte in merito alla consulta, la bocciatura perfino di Romano Prodi alle scorse elezioni per il Quirinale. Anzi, a questo proposito, nelle quirinarie da noi lanciate ieri, vi comunico con grande soddisfazione che nei profilo Twitter, in quello Facebook, negli SMS, nelle telefonate, vince, stravince, svetta Massimo D'Alema, che ieri a 8:30 è stato grande, visto? Sì, come no, ho fatto la ola, è stato grande quando a un certo punto ha detto una cosa che poi tutti gli italiani dicono, ma magari se lo dicono sottovoce, che no, che tra a giudicare due straordinari imbroglioni, cioè Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, ha l'imbarazzo nel capire chi eccelle in questa arte. No, veramente ha detto anche che Silvio è innamorato di Matteo, quindi insomma... Forse quella è una bugia, però io su sta vicenda dei grillini che vogliono capirne di più in merito al patto del Nazareno, io la soluzione l'ho trovata. Ah, finalmente. Io non c'era bisogno di andare in procura, non c'era bisogno di scrivere 31 pagine, non c'era bisogno di scomodare il povero Prodi che ancora è alla ricerca dei 101 e così si fa la sua bella carica, perché sapete cos'è il patto del Nazareno? E che? Altro non è che il famoso pacco del Nazareno e quindi in omaggio una citazione fa duopo. Ascoltate. Pacco, doppio K, pacco e contro paccotto. Ci sta a servizio mia sorella. E tu portano qua come al solito, che il servizio glielo facciamo noi. Allora, ma il 10% per la vendita di questo qua è poco. Questa volta mi dovete dare almeno il 20%, se no io lo porto da un'altra parte. Tu te lo ricordi a Toruva Stasi, quello che lo trovarono affogato a mare a Bassa Vacaiuva? Quello aveva fatto lo stesso accordo che vuoi fare tu. Però invece di perdere il suo cliente ci vinse 150 milioni perché era un baro di Las Vegas. Loro bastasse 150 milioni non vi teneva e si dovette fare il bagno e non sapevo nuotare. Mix 24, il canzoniere. Volgete gli occhi a veder chi mi tira, perché io non posso più venir con voi, e onoratel, che questi è colui che per le gentil donne altrui martira. Siccome non indovinano, ho cominciato, insomma, ho detto all'inizio c'è il titolo. E basta con Benigni. 800 24 00 24 349 238 6666. Non si può non indovinare. Bolla. Dobbiamo inchiodarlo, Bill. Dobbiamo massacrarlo. Spazzarlo via dalla faccia della terra. Lui è quella squadrina. Quella neonata. Io sono preoccupatissima. Mi ha fatto indagare nel passato di Bill. Ma quello è un santo, è pulito. È un santo con un ottimo avvocato, tutto qua. Che stai dicendo? Che non hai trovato niente su di lui? Oddio, Liz, mi dispiace molto. Controllerò di nuovo. Non è giusto, però. Voglio dire, tu, insomma, Aaron sta per essere massacrato. Morti non sa che colpo l'aspetta e Bill se ne va via tranquillo, con i miei alimenti. Era il club delle prime mogli, insomma. Una bella insalata gli stavano preparando. Assolutamente. Ai maritini. Vi voglio raccontare un super divorzio. Usciamo un po' dall'economia, dalla politica, dagli esteri. È quello di Harold M, che è l'amministratore delegato di un'azienda energetica che si chiama Continental Resources. Sai quanto doveva pagare alla ex moglie? Quanto? Allora, entro la fine dell'anno quasi 323 milioni di dollari. Poi deve dargli la paghetta da 7 milioni al mese. Il totale del divorzio, la Tardelli è là che si agita, fa delle cose Tardelli, stai tranquilla, non sei tu quella che prende questi soldi. Comunque il divorzio in totale vale 995.4 milioni di dollari. Il patrimonio del signor Ham, che non è proprio un poverello, è di 14 miliardi di dollari. Uno glielo porta via lei. Chiosa finale. Dai, che in fondo a Berlusconi è andata bene, viste queste cifre. Proprio. Diamine, 7 milioni al mese. Salamino. Siete stati dei vicini meravigliosi. Non dimenticherò mai tutto quello che avete fatto per me. Ti eri affezionato ai tuoi vicini? Certo, ma era attaccato al loro contatore da 2 anni. 2 anni! Non ho voluto rilassarmi, lo sai, la vita in città è frenetica. Hai perso il lavoro pure tu e sei tornato in paese. A casa di mamma con noi ci sarà pure la zia Carmela. No! Anche lei, come la mamma, ha una bella pensione. Ma voi ne avete altri di questi parenti? Certo. Interesse privato in pubblica trasmissione faccio oggi per festeggiare, per salutare la vittoria del cinema italiano finalmente in questi fine settimana dove l'Italia non arriva mai. Grazie a chi? A Salvo Ficarra e a Valentino Picone. Il film Andiamo a quel paese vince al botteghino e straccia pure, come si chiama quella cosa, interstellare degli americani. Interstellar, bellissimo, loro poi hanno fatto tante promozioni, tante interviste, girano, sono stati pure a Porta a Porta. Addirittura? Dove, a porta. Cos'è successo a Porta a Porta? Bruno Vespa, sì, ha detto loro, ma vi rendete conto che siete seduti su quelle poltrone dove ci sono stati presidenti, dove ci sono stati ministri, dove ci sono stati premi Nobel, autorità importantissime, adesso ci siete voi. I due atterriti davanti a questa rivelazione non sapevano cosa dire, quando Salvo Ficarra a un certo punto dice, ma che mi sta dicendo, cosa dovrei dire allora io che sono a Porta, la sto vedendo e non posso cambiare canale. va avanti tu che adesso c'ho da fare, sarai la mia metà ma si non parli, diventi un altro po' la mia 3/4. Andiamo a quel paese, Ficarra e Picone. Andremo subito. Andiamo e in questa giornata di cinema, dopo il giornale radio con Marina Milone, racconteremo la storia di un grande produttore del cinema italiano che è Dino De Laurentiis. Ecco, intanto abbiamo chiesto a Christian De Sica perché il grande produttore è stato davvero così unico. Perché uno che anche prima, quando era socio con Carlo Ponti, era uno che riusciva a conquistare l'estero e gli americani senza neanche parlare bene l'inglese, eppure riusciva a convincerli, tu pensa soltanto alla Bibbia di John Huston, quello che riesce a fare un produttore italiano, mettersi in competizione con le major americane. Allora, come le Quirinarie, come andiamo? Ci hanno proposto cacciare il presidente. Cacciare il presidente, io lo vedo bene a dirigere l'Accademia dei filosofi, certo, dopo Platone, però certo, sì. L'idea di un presidente filosofo non è male, così magari te lo immagini, quindi tutti, diciamo lo candidiamo anche lui. Cacciare, ma solo Cacciari, non avete D'Alema, altri nomi. D'Alema è già candidato, tu sei candidato, lo sai, io sono lui, è il nome cittadino, io sono un suddito di Sua Maestà Borbone. Va bene, pensa se sarai anche presidente. Appunto. Che complessità. E intanto Rimmel di De Gregori. Santa voglia di vivere e dolce venere di Rimmel. Come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto.